Radio 24 e Salone del Libro 2011 presentano L'Italia in 15 libri. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il Gattopardo. Sei pazzo a metterti con quelli? Un Falconeri sta con noi, per il re. Ma Franceschiello, Dio guardi. No, zio, no. Perché? Tu credi che il piemontese, quello che chiamano il galantuomo, sarà molto meglio? Dialetto torinese invece che napoletano, tutto qui. E allora, che ne diresti della Repubblica di Don Peppino Mazzini? Credimi, zione, se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica in 4 e 48. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato. Parte dal machiavellismo di Noi Italiani, il nostro viaggio nel Gattopardo, unico e postumo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, pubblicato nel 1958 da Feltrinelli. Il ricordo di Matteo Caccia. L'ho sempre vissuto come un romanzo che racconta dell'Italia e credo che per questo non sia datato, che non senta gli anni che ha e che al contrario sia più che attuale, se ha senso usare la parola attuale per un romanzo. La cosa che mi ricordo di più ovviamente è il dialogo tra Don Fabrizio e Chevalier, che viene a offrirgli il posto da senatore della Repubblica, a cui lui dirà di no. Siete un gentiluomo, Chevalier, e considero un privilegio avervi conosciuto. Voi avete ragione in tutto, tranne quando dite che i siciliani certo vorranno migliorare. Non vorranno mai migliorare, perché si considerano perfetti. La vanità in loro è più forte della miseria. Lui lo dice a proposito dei siciliani, però l'ho sempre immaginato riguardo proprio a tutto il paese. Io credo che il Gattopardo sia quella cosa lì, e che il significato che ha quel romanzo per la storia culturale di questo paese sia proprio che fa una fotografia minuscola di una regione, che è la Sicilia, di un periodo storico ben determinato, ma che in realtà fotografa tutto il paese anche oggi. Tomasi di Lampedusa scrisse il romanzo negli ultimi 3 anni della sua vita, dal 1954 al 1957, prendendo spunto dalla vita del suo bisnonno, il principe Giulio Fabrizio Tomasi di Lampedusa, vissuto negli anni del Risorgimento. Il libro non è propriamente un romanzo storico. Affrontando il passato, l'autore parla in realtà dei suoi giorni. E secondo Gioacchino Lanza, prima allievo e poi figlio adottivo di Tomasi di Lampedusa, non è neppure un libro autobiografico. Secondo me non racconta la sua vita. Io non condivido questa opinione. Lui chiaramente voleva fare l'Ulisse di Joyce, cioè un libro che durasse 24 ore. E allora lui scrive il primo capitolo. Ma poi il libro si allarga, nei capitoli successivi, ai ricordi d'infanzia, alla descrizione dell'aristocrazia siciliana in decadenza, agli intrecci amorosi, ai fallimenti di un'epoca. Lui racconta dei giovani siciliani, o dei giovani a una futura generazione, quali sono stati gli errori del passato. 5 anni dopo la pubblicazione, il regista Luchino Visconti ne realizzò una trasposizione cinematografica e anche in quel caso fu un successo, premiato con la Palma d'Oro a Cannes. Come poté in pieno boom economico piacere un libro in costume? E perché piace ancora oggi? Piero Dorfles dalla trasmissione TV per un pugno di libri. È perché dentro ci sono alcuni degli elementi fondamentali per capire chi siamo, cosa è successo, qual è il paese, la divisione tra nord e sud, la difficoltà di ricucire quelle che sono le antiche culture del meridione con quelle del settentrione. E il Gattopardo è sicuramente uno dei punti di partenza, lì quando arriva Garibaldi, quando finalmente si riunisce il paese, ma anche quando per certi versi si aprono le prime ferite. È quello che succede, è quello di cui il principe di Salina è protagonista e soprattutto è quello che alla fine rappresenta l'inizio di quello che è lo Stato moderno, e cioè non soltanto le difficoltà, le separazioni, non soltanto l'entrare della mentalità meridionale dentro quella settentrionale, ma anche un arrivo un po' coloniale da parte dell'amministrazione sabauda. Principe, anche se lei non ci crede, questo stato di cose non durerà. La nostra efficiente, moderna, agile amministrazione cambierà ogni cosa. Non dovrebbe poter durare, ma durerà sempre. Il sempre umano, certo, 1 o 2 secoli. E dopo forse tutto sarà diverso, ma sarà peggiore. Arrivederci, caro Chevalier. L'Italia in 15 libri è un programma di Guido Scotti. Tutte le puntate sono scaricabili all'indirizzo www.radio24.it.